ragione, come un vuoto a rendere per una ragione santa, come un suono ipocrita senza una ragione, come un vuoto a rendere per una ragione stanca. Sento le tue regole e non mi fanno male, spengono le frasi che io non riesco a pronunciare. Non tornare, non tornare, non tornare, non tornare più. Ed avrei voluto cantarti una canzone migliore. So che avrei voluto cantarti una canzone migliore. Cambio di stagione, solo un vuoto a rendere per una ragione santa.